senza nulla, guarda, va benissimo. Appare, va bene. E loro vengono qua forti perché portano. Le leggi sono diverse da come sono qua in Italia anche. Hai capito? Ehi, noi abbiamo un po' delle leggi balorde, abbiamo. Loro manco concessione pagano, loro attaccano e pompano, non mi frega niente. Infatti. Vabbè, non mi sembra che un apparecchio nuovo non l'ha mai attrezzato, però tu ti prenderà, se tu vedi il libretto, c'è un libricino, cioè, tu vedi tutti quelli che pagano la concessione, tutti gli altri paesi no, l'Italia sì. Infatti. Noi siamo un paese di cani magliatori, purtroppo ogni cosa si attacca. Ma che affa? Andate Rogero. Andiamo sul 10, magari ci sentiamo un po' il